piazza di Roma Firesta. È inutile che fa pare che non te ne importa più a me. Sto cuore ingannato con mille bugie, mo che t'ha scamata, povo lì sarà lì. Non sa fa così, non sa fa così. Ai ai ai, e mo te ne viene, riesce ancora a me. Ma il tempo è passato e mo non sa per chi sia.